avanti, amici miei, ridete dei vostri problemi. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Credo che sia il momento della open transparency più totale e noi non penso che sia finito in questo palazzo il tempo delle lettere segrete. Con l'Italia l'open data sarà totale. Sono stupito che il presidente Barroso si sia sorpreso, nel senso che la lettera è stata anticipata qui dalla su un importante giornale internazionale, Financial Times, ha poi avuto un scoop un importante giornale italiano. Ne rimarrà uno solo in piedi, tra Renzi e Barroso. E viste le tempistiche, è facile che sia Renzi, visto che Barroso se ne va. Però ne rimarrà uno solo, ormai è guerra aperta. Renzi tratta l'Unione Europea come delle regioni qualsiasi. Pubblicheremo tutti i costi dei palazzi di Bruxelles. Siamo al duello rusticano, siamo alla... Fai la prima mossa tu, perché qua uno dei due deve essere seccato. Chi vincerà in questo duello tra Renzi e Barroso, tra l'Unione Europea e l'Italia, tra la lettera strettamente confidenziale, tanto strettamente confidenziale che la potete leggere ovunque? Va bene, con questo dubbio che ci porteremo avanti per giorni, chi rimarrà in piedi dei due? Alle 6:34 minuti voglio salutare Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, dicendo è venerdì, giorno in cui si chiude la 77esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province, giorno in cui apriamo anche oggi il Parlamento da noi lavora anche il venerdì. Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Allora, chi rimarrà in piedi? Saluto intanto Maurizio Tortorella, che è il vice direttore di Panorama. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti voi. Sai chi c'è con te? C'è la Geloni. La Geloni. Eccola qua, la trovate così su Twitter, la Geloni, Chiara Geloni. Ciao Chiaretta, chi rimarrà in piedi secondo te? È troppo facile così, chi rimane in piedi, perché Barroso va via. Infatti, beh, però anche per te Maurizio rimarrà in piedi Renzi in questo duello. Messa così banale, borrioso come è stato da tempo ribattezzato. Come borrioso! È a fine corsa, però mi pare che di questa storia si stia facendo un uso assai esagerato. Dice che la trasparenza è di per sé un valore positivo. Abbiamo un po' drammatizzato no, sì, questa musica. Ci sono comunque dei tradizionali e corretti ambiti riservati di trattative sì, internazionali. Sì. Ma sì, ma tanto come ha detto Renzi, ci chiedono 1-2 miliardi, li trovo anche domani mattina. Domani mattina. Stamattina basta frugare nelle tasche della Geloni e si trovano subito. Così dobbiamo. Che no, dire? Ma è vero, sono d'accordo con quello che è stato detto. C'era scritto sulla lettera strictly confidential. Sì, sì, sai cosa vuol dire? No? Sì, forse non sanno bene l'inglese. Forse lo faccio io. Forse tu mi mandi una lettera, io la metto sul mio blog, tu dici magari me lo potevi dire. Raccontano che all'Unione Europea, mondo molto formale, abbiano preso questo più che come uno sgarbo diplomatico, proprio una cosa di una volgarità istituzionale. Forse è l'inglese. Però poi non era questa la sostanza, se pubblicarla o no, il problema è giustamente la risposta. No? Insomma, quello. È quello sì, che vedremo. Forse non so, è l'inglese di Renzi che li ha messi un po' in difficoltà. Ha detto strictly, forse strictly. Ha detto che vuol dire strictly? Strictly. Da strada. Quindi pubblichiamo tutto, confidenziale per l'uomo della strada. Tutto pubblichiamo. Tutto Renzi che dice appunto troviamo 2 miliardi anche domani, sentiamolo. Stiamo discutendo di 1-2 miliardi di differenza, noi possiamo metterli anche domattina su una manovra da 36 miliardi, su un bilancio da 800 miliardi, per un paese che ogni anno dà 20 miliardi all'Europa, corrispondono a davvero un piccolissimo sforzo. Un piccolissimo sforzo. Comunque è interessante questa cosa del... No, io ho detto Renzi tratta l'Unione Europea come delle regioni qualsiasi. No, Tortorella, che faranno? Ha detto ci sarà da divertirsi, basta queste lettere segrete, pubblicheremo tutto. Che pubblicherà Renzi? Se va a riprendersi Panorama può pubblicare quel che vuole sull'Unione Europea. Abbiamo fatto... E c'è bisogno che lo faccia il governo, appunto, quelle sono inchieste giornalistiche. Decine di giornali, poi sono 24 ore, tutti i giornali italiani hanno pubblicato i bilanci demenziali, a volte sconvolgenti dell'Unione Europea, gli sprechi. Se ogni paese facesse un po' di spending review seria, e parlo dell'Italia in questo momento, sarebbe forse meglio invece che andare a mettere le dita negli occhi degli altri. Questo sì. Geloni, se ognuno guarda le spese proprie prima di Ma sì, questo è il tipico modo di rispondere dell'argomentare renziano, per cui chiunque si frapponga gufo e rosicone. Quindi ieri era il giorno dell'Europa di essere rosicona, spendacciona, e ti faccio vedere io quanto spendi. Io credo che sia un modo di rispondere molto efficace, e che colpisce nella comunicazione, ma però non è una risposta, perché non risponde nella sostanza. Beh, la risposta arriverà. Posso aggiungere una cosa? Sì. Rischia anche di essere controproducente, perché campo internazionale, avendo a che fare con partner piuttosto aggressivetti, diciamolo così, e che possono questo farci? Atteggiamento del bruffone rischia poi di provocare reazioni malevole, mettiamo così. Però è proprio così, cioè è Renzi in questo, dice l'Unione Europea ci critica e io vi pubblico le cose, le regioni criticano, pubblicheremo tutto online le spese delle regioni. È questa dialettica del trovare sempre l'avversario, no? L'avversario. Pensasse un po' a Togliatta, gli era la spesa pubblica improduttiva. Eccolo là, il graffio di Tortorella, graffia. Pensa la gente. Sì, vabbè, chiaro. Io penso davvero che sia giusto anche rispondere a certe rigidità dell'Europa, a certe pretese, sia giusto che un paese reagisca difendendo anche la sua sovranità, però non sono sicura che sia questo il modo, cioè pubblicare una letterina per far vedere che tu non hai paura e poi dire ma voi spendete troppo, cioè non è questo il punto sono le regole dell'Europa che sono troppo rigide e non stanno funzionando e stanno causando la crisi invece di risolverla. Allora diciamo questo, siamo i presidenti del semestro europeo. E quello infatti è quello, che Renzi, su cui Renzi punta. Però voi non sapete lo scoop in realtà. Maurizio, qua abbiamo uno scoop, perché abbiamo una protagonista di uno scoop, lei non lo sa, ma io sono convinto che qua abbiamo la futura direttrice dell'Unità, Chiara Geloni. Ma l'avete visto? E allora facciamo subito, facciamo subito il test a Chiara Geloni, perché l'editore, sapete, Veneziani sta comprando l'unità, è quello che ha, non so, cos'è che ha, aiutami Tortorella, Stop è suo. Vero. Vero. Cioè, Rackham, a me piace Rackham, quello dell'uncinetto. Ah, ma appunto, ieri mi chiedevo Rackham di che, l'uncinetto, sei abbonata a Rackham? Sì, sì. Sei abbonata a Rackham, allora, compra l'unità, e ha detto questa cosa, basta questa politica barbosa, noiosa, grigia. Per esempio, se ci arriva la foto della Pascale nuda, pubblichiamo. Allora, Geloni, che si fa? Si pubblica la foto eventuale della Pascale nuda? Ma il punto è questo, che ti rispondo così, la foto della Pascale nuda costa, perché non vorrei che poi pur di avere qualcuno nudo si pubblicasse la foto di Bonifazi nudo. Ah, il tesoriere del PD, mi sa che non diventerà direttore, dopo questa dichiarazione Tortorella non diventerà direttore, perché hanno detto che voglio un direttore giovane, spumeggiante. Ma io sono vecchia, cioè, ma che comunque, vecchia? Ma sì, cioè, rispetto allo standard dei 34 anni che ha chiesto l'editore dell'unità. E quanti ne hai? 35? Buoni, ma molti di più. Mannaggia. Tortorella, quanti anni ha la Geloni che non si può chiedere a una donna? No, tu? Ha una voce così carina. 28? Quanti ne hai? La voce... No. Fossero i 30. Invece no. 45. No, porca fuori. Miseria, mi sa che sei un po' fuori per la nuova unità. Oggi Staino. Ero donna, fra l'altro. Era perfetto. Cioè, oggi Staino su Repubblica dice: non vorrei trovarmi con direttore Barbara D'Urso all'unità. Tortorella, sei contento che torna all'unità? In edicola? I giornali sono sempre. Belle cose per chi, soprattutto come me, ha qualche anno più di... Per chi fa il giornalista, sì, esattamente, certo. Poi bisogna vediamo, sicuramente, certo, fa un po' impressione vedere l'unità... Sì, che non c'è, o con Veneziani, no? Con Veneziani. Ecco, da Rackham all'unità, fa un po' impressione. No, uno pensa anche l'unità è un marchio così forte, così sì, caratterizzato, sì. Così storico. Adesso l'uncinetto. Cosa puoi fare dell'unità di qualcosa di... Ma non lo so, vedremo, insomma. Comunque salutiamo il ritorno forse in edicola dell'unità tra qualche mese. Sì, infatti, intanto se tornasse davvero l'unità in edicola e se si potessero pagare gli stipendi ai colleghi che hanno lavorato gratis per tanti mesi, questo già sarebbe una cosa che a me personalmente farebbe piacere. Poi, oppure qualche centrino per tutti. Poi non so, sia l'editoriale che è stato illustrato ieri, insomma, io anch'io ho qualche dubbio che possa funzionare, ma quello è una bella scommessa. Vedremo. Ma intanto è venerdì e siamo alla vigilia, e quindi alla vigilia di che? Alla vigilia della Leopolda, alla vigilia della manifestazione della CGIL. Io chiedo a tutti, quindi, Leopolda, piazza o pizza? Mangiarsi una pizza sabato, questo lo vedremo, ma intanto sentite qui la Boschi. Non essere alla Leopolda non significa essere contro il governo, assolutamente, perché non è un'iniziativa del governo. Io ho invitato personalmente, per esempio, Stefano Fassina, che mi ha detto che ha altri impegni nei 3 giorni, che ha promesso ai bambini di portarli allo zoo domenica mattina, e diciamo che invitare è cortese, se poi uno ha altri impegni, diciamo che non per questo non faremo la Leopolda. Vorrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no, per vedere come stanno le bestie feroci, e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. Vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io, no. Qui Chiara c'è questo problema, che Fassina deve portare allo zoo i figli e quindi non può raccogliere l'invito della Boschi. Che si fa? Che si fa? Sì? La Boschi ne vuole 3 anche lei, lo sa che quando poi arrivano i figli è una cosa seria. Infatti, poi, se gli hai promesso lo zoo non è che puoi andare alla Leopolda, effettivamente. Insomma, che... Tu, Tortorella, faresti Leopolda, piazza o pizza? Io farò rugby, perché ho portato due figli a rugby. Vabbè, ho capito. Ragazzi, è lo sport o lo zoo che frega la Leopolda, questo, o la CGIL, questo è il problema. Io vado. Dove? Dove vai? Dove? Vado a piazza con la CGL. Con la CGL, la Geloni, l'antigovernativa, antirenziana, antileopolda, antirinnovamento, gufa, rosicona e civetta, pure un po'. Dai, sì, sì. Ci vanno quasi tutti i miei amici. Ma vai in piazza CGL a fare che? Allora, intanto perché sono una giornalista e vado a vedere cosa questo succede ci sta, piazza, giusto. Dopodiché ci vado perché penso che abolire l'articolo 18 non fosse né utile né necessario. E terzo ci vado perché davvero vengono a Roma tantissime persone con le quali io parlo di politica tutti i giorni, al telefono, su internet, Ma ci vai perché ci credi, comunque. No, ma perché in quella piazza ci sono tantissimi elettori del PD, penso che sicuramente, sia giusto anche che ci sia un po' di PD. Il tema è andrà Bersani? Pare di no, Ma non lo so, ma andrà... pare di no, sui giornali non vuole essere divisivo, così dicono. È il partito delle lotte di governo. Ognuno ha il suo ruolo, io non sono un parlamentare del PD. Ovvio. Ma non ti devi giustificare, vai in piazza con la CGL e sii contenta così. Ognuno fa quello, non è necessario che tutti facciano sempre la stessa cosa. Ma no, certo, anche se la versione questa dell'andare allo zoo comunale migliore è stata quella di recente di Niki Vendola, vi lascio con questa per il traffico. Niki Vendola, Radio Rock! Potrebbe andare tutti allo zoo comunale. Vengo anch'io! No, tu no. Per vedere come stanno le bestie feroci. Grande! E gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. Per vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, tu no. Sono molto in anticipo. 24 mattino. Dottor Milan, buongiorno. Allora lì, i genovesi, se dovessero tirarsi da quella sorte lì disperata che sono, dovrebbero appoggiarsi a degli amministratori olandesi o tedeschi. E gli italiani, niente italiani, tutti a casa loro, capito? Volevo lasciare un messaggio a Renzi. A Burino, c'hai solo il coraggio di lingue o anche il coraggio di palle? Vedremo se avrai coraggio di palle, te le faremo mangiare. La popolazione non ha capito niente in Italia e non capisce mai niente, sono ignoranti, incapaci di capire. Non ci sono posti di lavoro in Italia, i politici posti di lavoro non ne danno perché i soldi se ne devono rubare e la colpa è nostra, è cornuto chi va a votare. Dopo la Roma rullata dal Bayern Monaco, anche la Juventus sconfitta dall'Olympiacos ad Atene. Oh, adesso i gobbi hanno poco da stare allegri. Buongiorno Milan, ascolta, ma non desiderare troppo la Rossella Brescia che ti si accorcia la vista. Piuttosto, invita la Luisella Costamagna che non la inviti più. Almeno facciamo anche un po' di giornalismo vero la mattina. Ti pare? Ciao, Bigul. Com'è chiamato Beagle? Vabbè, Tortorella tradurrà per tutta Italia. Beagle, vabbè, si dice a Milano così, ma un po'. Di toscano anche. Cioè? Come si... Bischero, vabbè. Tu Chiara vuoi dirmelo? Ma perché sto facendo questa campagna? Voglio ritornare Free Rossella Brescia. Una volta potrò volere ospite Rossella Brescia. Io la vorrei qui, ma siccome è in onda su RDS, cioè insomma, come dire, un po' di incompatibilità, quindi ho deciso, scriverò al dottor Montefusco, che è il proprietario. Poi metti la lettera su. Sì, strictly. Io gliela scrivo strictly confidential e poi vediamo che succede. Vediamo che succede. Free Rossella Brescia. Ma sì, anche Luisella Costamagna. L'inviterò, ma spesso mi dice di no perché dorme a quest'ora. Luisella, ma come? Ma insomma, Luisella Costamagna, quando vuoi, sei ben riaccetta qui al Parlamento. Ma io adesso voglio farvi sentire Silvio Berlusconi con la premessa che gli è successo. Chiara Geloni, che Berlusconi è per lo ius soli temperato. Innamorato Innamorato di chi? Di Francesca. Ah, pensavo di Renzi. Ha convinto che sia giusto dare diritti agli omosessuali. Diritti agli omosessuali, sia all'unione civile alla tedesca, sia alla velocizzazione della cittadinanza agli stranieri, ai bambini stranieri. Sentite Berlusconi, Berlusconi. La famiglia tradizionale è la ricchezza, il cardine del nostro paese, ma ancora di più lo sono l'amore, il rispetto degli altri, di tutti, la tolleranza che ci vantiamo di avere come particolare nostra qualità e la dignità. La dignità. E soprattutto, sentite, ci siamo sempre battuti per i diritti degli omosessuali. Io sinceramente grandi dichiarazioni in questo senso non le ho sentite, non le ricordo. E anche per quanto riguarda i diritti di chi è unito da un vincolo di amore ad una persona dello stesso sesso, noi ci siamo sempre battuti affinché questi diritti fossero affermati. Vabbè, Maurizio, devo dire, forse io la ribalterei così. È vero che non c'è mai stata una posizione di netta chiusura, non ci sono dichiarazioni di Berlusconi di chiusura verso, però voglio dire, le battute, dai, no, sulla, noi preferiamo le donne, noi... Sì, omosessuali, no, per carità, è una posizione assolutamente legittima, francamente un po' tardiva, Sai come la penso io, però l'ha giocato anche con come no. E tra l'altro la copertina di ieri che aveva Salvini si è incazzato parecchio per questa, per queste si è incazzato soprattutto per lo Ius Soli, perché sugli omosessuali credo ci sia maggiore tolleranza, ma quello che questa lega sciovinista sempre più di Salvini la battuta sullo Ius Soli, cioè sulla cittadinanza per i figli degli immigrati dopo che hanno compiuto un ciclo di studi, questo è tecnicamente la proposta, per loro è ovviamente inaccettabile. È un po' troppo. Cioè, Chiara, che è successo? Sei innamorato della Francesca? Sei innamorato della Vladimir? Cioè no, nel senso... No. Berlusconi, al di là delle battute, la destra in Italia ha governato... tantissimo e siamo uno dei paesi più arretrati, penso, dell'Unione Europea su queste materie. Quindi anche la sinistra ha governato parecchio, però a sinistra si sono alternati e a destra è sempre stato governato molto di più la destra, se facciamo il conto, in questi 20 anni. E nonostante questo, e a causa di questo, secondo me siamo il paese più arretrato dell'Unione Europea. Finalmente Berlusconi si rende conto, non lo so perché, l'ha chiesto a lui. Certo, lascia su queste materie un campo, perché purtroppo la destra in Italia c'è e c'è gente che la pensa in quel modo. Su quel terreno vedrai che Salvini si salda un grillo. Chissà, la lettura della Geloni, prossima direttrice dell'Iraq, no, dell'unità. Alla prossima, ciao. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari ascoltatori, amici debosciati d'Italia. Sono le 7:18 minuti e oggi, che è venerdì, si chiude la 77esima settimana decisiva per la riforma elettorale e decisiva per l'abolizione delle province. Come al solito il venerdì diciamo c'è la 78esima settimana. Abbiate fede, abbiate fiducia, abbiate ottimismo. Allora, oggi parleremo con Sergio Rizzo, che ha inviato il Corriere della Sera, ha scritto un libro uscito un paio di giorni fa, Da qui all'eternità, l'Italia dei privilegi a vita. Spesso parliamo di questi temi. Sergio Rizzo, insieme a Gianantonio Stella, scrisse la celebre La Casta, il celebre libro La Casta, e ora torna su questo tema. Lo approfondiremo alle 8:15. Poi parleremo di giustizia, che fa un po' rabbrividire, così almeno leggere i titoli dei giornali. Una vicenda che riguarda la Puglia, un cittadino italiano che è stato assolto, ha ucciso il figlio, ma in quanto ubriaco è stato giudicato, questo in appello, incapace di intendere di volere e quindi assolto. A me hanno sempre spiegato nella mia ignoranza che commettere un reato da ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è un aggravante invece che un attenuante, e invece in questo caso la Corte lo ha mandato assolto. Cercheremo di capire perché e per come, avremo ospite anche l'avvocato della persona che è stata assolta. Questa alle 8.30, intanto andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 24 ottobre i titoli sono per la maggior parte declinati allo scontro Italia-Unione Europea, duello Renzi-Unione Europea sulla manovra, così apre il Sole 24 Ore, mentre per il Corriere della Sera duro scontro tra Renzi e Barroso. Repubblica, l'Unione Europea accusa l'Italia, violato il patto, Renzi non ci sta, lite con Barroso. Manovra verso il sì dell'Unione Europea, così titola La Stampa, che poi è la sostanza, cioè ce la bocciano o no questa manovra, al di là delle liti. Il Messaggero, Renzi, Unione Europea, battaglia sui conti. Mentre Il Fatto Quotidiano, per il secondo giorno consecutivo, lo Stato insolvente non ha i soldi per Genova. Vedremo di che si tratta. Libero invece, hanno vinto i ladri, è la vicenda di una persona rapinata che 8 anni fa ha sparato a 2 rom che stavano per rapinargli un deposito, è un rigattiere, ora deve rispondere di tentato omicidio e deve risarcire con 120.000 euro le vittime. Hanno vinto i ladri, così titola Libero. Il Giornale invece, domani scissione nel PD, mezzo partito con piazza con la CGIL, l'altra alla Leopolda. Mentre il Manifesto, il Gattopoldo, questo è Renzi per il Manifesto. Mentre Avvenire, il Papa più giustizia. Io però voglio partire con una notizia, mi sembra una buona notizia. È un accordo che gli assessori di tutte le regioni hanno stipulato al Salone del Gusto, è una proposta che riguarda i nostri figli ed è una proposta che si premura di togliere nei prossimi mesi dalle scuole tutti quei distributori di merendine o bibite zuccherate, questo per il bene e la salute dei nostri bambini e per combattere fin da piccoli il rischio di obesità. Scuola, il patto della merenda. Leggo da Repubblica, dolci e bibite banditi dalle aule, ma anche La Stampa dedica una pagina a questo tema, gli assessori mettono la frutta nel distributore. Emanuela Minucci, poi si dice che nel Salone del Gusto, a forza di assaggini di lardo di colonnata, torrone al pistacchio, gnocco fritto si ingrassa. E invece ieri si è compiuto un grande passo per far dimagrire i bambini italiani, che le statistiche sistemano tra l'altro tra i più in sovrappeso d'Europa. È stata infatti approvata dagli assessori regionali all'agricoltura una proposta dell'assessore piemontese Ferrero per mettere al bando le merendine tutta ciccia e brufoli che molto spesso sono in vendita nei distributori automatici di snack e le bibite che si trovano nelle scuole frequentate da minori. Bambini e ragazzi che alla brioche zeppa di grassi e idrogenati innaffiati da una bibita gassata aggiungono magari un ben poco salubre pomeriggio della doppia T, tablet più televisione. E quindi questo è il documento. Cosa accadrà ora? Si chiede anche Repubblica. Il testo approvato all'unanimità dagli assessori regionali all'agricoltura finirà sul tavolo della conferenza Stato-Regioni e se anche questo organismo approverà la norma anti-obesità, toccherà al governo tradurre in decreto e poi in legge il documento. Mi sono già perso. Una filiera un po' più ridotta, no? Insomma, si spera. Quindi, assessori regionali, conferenza Stato-Regioni, governo, decreto, legge. E speriamo che, se è una cosa positiva ed è stata decisa, si faccia nel giro di qualche mese, magari dall'anno prossimo. Voglio andare su Libero. Ricordate quest'estate Renzi, come moltissime persone, si è gettato la secchiata gelata in testa. L'Ice Bucket Challenge, quello per cercare di sensibilizzare sulla raccolta fondi per la SLA. Ebbene, Libero oggi però fa un colpo basso a Renzi con questo titolo a pagina 5. La secchiata di Renzi ai malati di SLA. Quest'estate, racconta Franco Becchis, il presidente del Consiglio si era fatto filmare con l'acqua ghiacciata, c'è anche la foto, i fotogrammi di quella doccia. Che succede però? Che nella legge di stabilità, racconta Libero, è stato diminuito di 100 milioni il fondo per le non autosufficienze, che un tempo arrivava fino a 500 milioni di euro, nel 2014 ammontava a 350 milioni di euro e ora è sceso a 250 milioni di euro. Dunque, Libero scrive, spentisi, riflettori, finito lo show, incredibilmente il Presidente del Consiglio italiano ha compiuto questa scelta, ha ridotto gli stanziamenti per l'aiuto ai malati e alle loro famiglie di ben 100 milioni di euro, come si legge l'articolo 17, dove in realtà nell'articolo 17 della legge di stabilità si legge così, lo stanziamento del fondo per le non autosufficienze è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dal 2015, formalmente è vero, essendo stabilito di anno in anno con la manovra, ma quindi sembra che da zero passi a 250 milioni. In realtà, scrive Becchis, nel 2014 c'erano 350 milioni, quindi nella lettura dell'articolo sembra che sia incrementato. In realtà sono 100 milioni in meno dello scorso anno. Questo è su Libero, la secchiata di Renzi ai malati di SLA. Mentre il Fatto Quotidiano per il secondo giorno consecutivo si concentra sullo Stato insolvente. Sapete che lo Stato italiano è insolvente in tanti campi, ma il Fatto Quotidiano su quali insolvenze si concentra da due giorni? Sul fatto che le associazioni che assistono i minori, i migranti minori che stanno in centri e gestiti da associazioni, queste associazioni poi non beccano un quattrino dallo Stato e questo succede da anni. Lo Stato insolvente deve 30 miliardi a COP, ASL e imprese. Carlo Di Foggia a pagina 4 del Fatto. Tutto risolto, spiegò il ministro Padoan il 27 agosto scorso sui debiti della pubblica amministrazione. Il titolare del Tesoro ce l'ha messa tutta per non contraddire i tweet del Premier, ma la triste saga dello Stato che non paga i suoi fornitori continuerà. C'è per esempio la storia, l'ultima uscita delle cooperative sociali che si occupano dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Sicilia. Cooperative che sono allo stremo perché i costi vengono anticipati dalle strutture e ad oggi non sono mai stati rimborsati. Racconta anche Rino Angelotti, che viene intervistato, è il presidente della cooperativa Il Sipario di Gravina di Puglia, che raccoglie 8 comunità di migranti. E dice: non hanno i soldi, c'è da capirli. Prendiamo il nostro caso, la maggior parte dei minori viene da Augusta in Sicilia, dove oggi sono arrivati 3.200 ragazzi. Non è che i migranti sbarchino tutti lì, semplicemente ci approdano le navi di Mare Nostrum. La regione Sicilia non contribuisce, è completamente assente, cerca di scaricare il problema altrove. E se loro non pagano, tocca a voi. È quello che il ministero ha provato a fare, ma qui ci sono comuni con poche centinaia di abitanti che dovrebbero accollarsi costi per milioni di euro per mantenere 30 ragazzi. Insomma, invita il responsabile di questa cooperativa, lo Stato intervenga direttamente, non molleremo, stiamo facendo incontri fino a tarda notte al Ministero delle Politiche Sociali per sbloccare la situazione, ma devono impegnarsi per primi. Lo Stato che non paga, sul Fatto Quotidiano. Mentre lo Stato non paga, si citava la Sicilia ed eccolo qui, Libero. Vince il premio Mani sul Volante per l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Nino Sunseri che racconta dalla Sicilia, il titolo è già emblematico, come ricordava Piazza Pulita lunedì, in Sicilia 65 assunti per controllare 100 cavalli e una statua. In un allevamento della regione Sicilia, stipendiati 40 operai che hanno in gran parte peraltro certificati medici che li sollevano dal lavoro a contatto con gli equini. Cioè, non so se avete capito, personale assunto per badare ai cavalli che ha certificati medici che li sollevano dal lavorare coi cavalli. Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. Alessandro Milan con la sua sexy voce ti sveglio ogni mattina. Cara ascoltatrice, grazie, grazie. Seguirà numero di telefono. Allora, come dicevamo da qualche giorno, c'era questo scontro sotto traccia, che adesso non è più sotto traccia, è palese, tra Barroso e Renzi. Qui ve lo raccontavamo attraverso la lettura dei giornali. Ieri è tutto diventato molto molto più visibile. L'Unione Europea che manda la lettera all'Italia, nella lettera c'è scritto in alto strictly confidential, cioè strettamente confidenziale, una roba, come dire, tenetevela per voi. Nel giro di mezz'ora il Ministero del Tesoro ha deciso di pubblicarla. Questo, secondo il Corriere della Sera, viene vissuto nei palazzi molto formali dell'Unione Europea, come racconta Luigi Offeddu, come un vero e proprio una vera e propria mancanza di rispetto inspiegabile. L'ira dietro le quinte di Bruxelles, praticamente, racconta il Corriere, neppure ai tempi di Silvio Berlusconi i rapporti con Bruxelles erano così incandescenti. Insomma, in questa lettera, intanto, come racconta Beda Romano sul Sole 24 Ore, tanto la potete leggere ovunque, si racconta, tra drammatizzazioni giornalistiche, scrive Beda Romano, confusione istituzionale, nervosismo politico, quello che è il negoziato tra Roma e Bruxelles sul futuro della manovra. La Commissione Europea ha inviato questa lettera, una lettera nella quale si chiedono spiegazioni entro 24 ore su come l'Italia intende rispettare i patti europei. Anche qui ci sarà la risposta oggi. Pare che Renzi voglia fare, come dire, penare un po' la risposta, e può essere che il governo italiano manderà questa risposta lunedì dopo il weekend. E poi Renzi, con il suo fare molto molto sfrontato, ieri è piombato a Bruxelles e ha detto, l'abbiamo sentito, l'Europa sia più trasparente, cioè, io dicendo una battuta prima, ha trattato l'Unione Europea come una regione qualsiasi. Pubblicheremo tutti i dati dei palazzi dell'Unione Europea, ci sarà da divertirsi. Così Renzi risponde a Barroso: sono stupito dello stupore di Barroso per il fatto che abbiamo pubblicato la lettera, è finito il tempo delle lettere segrete, pubblicheremo tutti i dati di questi palazzi. Un tono, come racconta il Corriere della Sera, irridente. Barroso, d'altronde, è in uscita dalla Commissione Europea e lui lo sottolinea: dalla settimana prossima non sarà più presidente, così Renzi. E insomma, lo scontro ormai è evidente. E infatti, subito sul Messaggero, cosa appare a pagina 6? Claudio Marincola: ecco gli eurosprechi del Parlamento Europeo. Doppia sede, stipendi tuttora d'oro per politici e burocrati nei quartier generale dell'Unione Europea. La spending review non è mai arrivata. Il 6% del bilancio comunitario serve a pagare i costi dell'amministrazione. Il bilancio è di 1756 miliardi di euro per il 2014. Il 35% se ne va per le spese del personale, il 27% per le spese degli eurodeputati, il 21% per spese amministrative e politiche di informazione. Ci sono gli stipendi dei deputati, ci sono le pensioni a 63 anni, tutte le spese, le indennità a 304 euro al giorno, e poi ci sono le spese di viaggio, 4.243 euro di indennità annuale fuori stato di elezione per i riunioni ufficiali, e ancora i fondi per gli assistenti, 21.000 euro al mese per gli eurodeputati. E insomma, e poi la questione delle due sedi, Bruxelles e Strasburgo. È cominciata la battaglia, prima ironizzavo, con musica da duello tra Barroso e Renzi, ne rimarrà in piedi uno solo, e il più candidato è Renzi a rimanere, visto che Barroso se ne va. Comunque, il vice ministro dell'economia Enrico Morando rilascia un'intervista al Foglio, e alla domanda precisa di Marco Valerio Loprete: siamo alla vigilia di una temuta bocciatura della manovra? Assolutamente no. Se la pubblicazione della lettera è stata decisa dal governo per evitare il solito tourbillon di illazioni, dice Morando, è pur vero che essa non contiene novità rispetto a quanto avevamo annunciato. La domanda però è: come può l'Italia giustificare un aggiustamento strutturale dei conti verso il pareggio di 0,1 punti di PIL invece che di 0,5? La risposta di Morando è duplice. Primo, la congiuntura è peggiore del previsto, siamo ancora in piena recessione e adottare ulteriori misure restrittive di politica fiscale ci penalizzerebbe. Secondo, come i trattati prevedono, stiamo attuando riforme strutturali che necessitano di risorse aggiuntive per essere portate a termine. Questa, in sintesi, per Morando sarà in qualche modo la risposta del governo italiano. Intanto la legge di stabilità è arrivata alla Camera, perché adesso c'è l'iter parlamentare. C'è stata anche la firma di Napolitano e ci sono delle sorprese. Il Corriere della Sera racconta con Lorenzo Salvia, per esempio, che il bonus bebè nel giro di un giorno è già diminuito. Ma come, direte voi? Ebbene sì, il bonus bebè, che verrà dato, ora è accertato, a chi avrà fino a un tetto di 90.000 euro lordi sommando le buste paga dei due genitori, quindi come nucleo familiare, per l'anno prossimo lo stanziamento di 202 milioni. Nel 2016 saliranno a 607 milioni e nel 2017 un miliardo, per un totale in 5 anni di 3,6 miliardi di euro. Soldi per il 2015 che basteranno almeno per 200.000 bambini, ipotizzando per assurdo che nascano tutti il 1 gennaio e abbiano così diritto a 12 mesi di bonus. In realtà ci saranno quelli che nascono anche a novembre e quindi avranno diritto a 2 mesi di bonus per il 2015. In Italia ogni anno di bambini ne nascono più del doppio, però bisogna vedere quanti di questi come figli di nuclei che hanno 90.000 euro come massimo. Insomma, per farla breve, il rischio, secondo alcuni, che questi 200 milioni non bastino a coprire tutti i bonus bebè del 2015. Il Ministero dell'Economia assicura: no, ci saranno soldi per tutti. Stiamo a vedere, che dobbiamo tifare adesso che non nascano abbastanza bambini? No, sarebbe il contrario, dobbiamo tifare che nascano e, non so, facciano i bambini solo i ricchi. Ecco, facciamo questo appello. Chi ha più di 90.000 euro di nucleo familiare può fare bambini, gli altri no, se no ci costate. Vi piace come appello? Non lo so. Politicamente invece cosa succede? La novità del giorno è Berlusconi, che ha fatto una conferenza stampa e ha rinnovato l'asse con Renzi. Questo è il titolo del Sole: Berlusconi rinnova l'asse con Renzi. Su che cosa? Beh, ha detto sì allo ius soli temperato, cioè velocizzare la cittadinanza per i figli degli stranieri. Sì alle unioni tra omosessuali in stile tedesco, come vuole il governo, come vuole Francesca Pascale e come vuole Vladimir Luxuria. Io ho un po' sono sobbalzato quando ho letto il titolo di Repubblica: Berlusconi, svolta renziana. Ma perché svolta? Mi sembra che sia in linea con gli ultimi mesi. Comunque, svolta renziana, sì su gay, ius soli, Italicum. Ovviamente in Forza Italia è rivolta, molti contestano la linea del partito. L'ira, per esempio, del leghista Salvini, perché si parlava in qualche modo di una riappacificazione, ma soprattutto sullo ius soli temperato, Salvini della Lega dice assolutamente no. I titoli però sono questi, anche il Corriere, vedete: dico sì a unioni gay e ius soli, un altro asse Berlusconi premier. Soprattutto Berlusconi ha detto: siamo sempre stati e ci siamo sempre battuti per i diritti degli omosessuali. Vabbè, io non ho una memoria di ferro, questo è noto. Magari Mauro Meazza mi può aiutare su questo. Tu ricorderai certamente dichiarazioni, campagne e battaglie da parte di Forza Italia. Buongiorno Alessandro. Ma mi farei, credo di essere preso in questo momento di una amnesia provvidenziale. Temporanea, va bene. Temporanea, va bene. E provvidenziale. E provvidenziale. No, sono distratto perché ci sono tante cose da leggere anche per il fine settimana. A parte che devo trovare 2 miliardi domattina, come ho visto, che appunto per rispondere, non è che puoi darmi già tu qualche cosa. Che poi sarebbe stamattina, perché aveva detto ieri domattina. Sì, sarebbe stamattina, quindi Renzi, se per mezzogiorno mi fai, quando arrivo, insomma, più tardi mi dai almeno uno dei 2 euro, così già qualche cosa lo trovo. Io l'ho lanciato su Twitter, perché Renzi ha detto 2 miliardi ci contesta l'Unione Europea, li troviamo anche domattina. Io non li ho, però se voi li avete, che ascoltatori... Vabbè, ma metti qualcosa, quello che puoi, adesso non... per il bene del paese. Va bene. No, c'è molto da leggere, perché poi oggi siamo in edicola anche con è vero. Il nostro mensile, e poi anche con Aspenia, con un altro abbinamento, quindi anche per il fine settimana, diciamo, se non hai altri impegni, per carità, non so se vai in giro durante questo fine settimana, puoi invece... posso leggere anche andando in giro, diciamo. Puoi portarteli anche andando in giro. Io questo fine settimana sarò sicuramente al lavoro, perché come sai ci sono queste pagelle temute della BCE sugli stress test per le banche, quindi noi stiamo preparando a seguire queste vicende. Intanto sappi che sta diventando più facile il divorzio breve, come dire, anche per figli minori, ne riferiamo oggi, mi scrive Giovanni Negri, sarà possibile non passare dal giudice anche in caso di figli minori. Questa è una legge molto attesa sì. da molti ovviamente, ed è anche contestata. Però. Sì, ha fatto il primo passo al Senato, adesso va alla Camera, insomma, quindi le questioni procedono rapidamente, dovremmo arrivare a una stabilizzazione nel nostro ordinamento. Ho visto che sono cresciuti i turisti, cioè sono attesi in crescita, meglio, i turisti montani, si parla di un 3,8%, è cresciuto l'export, pochino le case invece. Lo sai che avrei visto sul Sole 24 Ore di oggi, la tassazione è 50 miliardi, il valore a rendita catastale degli immobili italiani è 37. Com'è possibile tutto ciò? Non lo so, però te lo spiega oggi, guarda, Salvatore Padula sul Sole 24 Ore. È un mistero di quelli dolorosi, forse anche su questo mi faccio venire un'amnesia provvidenziale, perché sarebbe un po' complicato da spiegare adesso in un minuto. E tutto ciò premesso, non vorrei parlare di calcio neanche internazionale. No, povero Moratti. No, vabbè, il grande presidente gli hanno sfilato l'Inter. Ha deciso diversamente, ti prego di non fare dell'ironia, specialmente sui miei sentimenti. Ti auguro naturalmente una gloriosa e serena domenica. Grazie. Soprattutto per la tua squadra del cuore. Soprattutto anche per la tua, in bocca al lupo, tanti auguri. Tanti, tanti, tanti cari auguri, anche, caro Alessandro. Anche alla tua. Ci si risente lunedì, mi raccomando leggi, sì, leggi, sì. Informati. Aspegna il soprattutto. Aspegna il e poi stai sintonizzato sugli stress test, perché lunedì ne vedrai delle belle, insomma. Va bene. Alessandro Mila, l'insonne dell'informazione. Insonne, abbastanza, effettivamente è un po' così. A proposito di Berlusconi, che abbiamo citato prima, ieri si è aperto a Bari il processo che vede imputato Giampaolo Tarantini e altre 6 persone per favoreggiamento alla prostituzione. Le famose cene eleganti a Palazzo Grazioli, dove c'era Berlusconi, ma non mi interessa tanto il processo, eccetera. Sinceramente non interessa neanche più molto agli italiani, ma mi incuriosiva una cosa da ieri, Vanessa Di Meglio, che è andata a testimoniare, ha detto non ci fu sesso tra me e Berlusconi, solo baci ed effusioni, e a quella cena c'era anche George Clooney. E allora io da ieri mi chiedo, ma come? Ma c'è George Clooney e tu fai baci ed effusioni con Silvio Berlusconi? Ecco, è questa la vera cosa che mi inquieta da ieri. L'escort a Palazzo Grazioli con Berlusconi, solo effusioni. E c'era George Clooney lì a fianco. Bah, vai a capire come va la vita. Comunque, passiamo alle cose più serie. Il Sole 24 Ore racconta il costo della TAV. Mi ha molto fatto arrabbiare. È stato in lizza per vincere il premio Mani sul volante. Il costo della TAV, come in Italia per ogni opera, sale a 12 miliardi. Alessandro Arona e Maria Chiara Voci raccontano come la tratta internazionale della Torino-Lione, il cui costo per i lavori era calcolato inizialmente in 8 miliardi 329 milioni, invece richiederà in realtà un esborso di 12 miliardi. Per la precisione sono 11 miliardi e 977 milioni. Significa che l'Italia, su cui grava il tratto per il 57,9% della spesa, l'Italia dovrà garantire la copertura non di 4,8 miliardi di euro, ma di 6,9 miliardi. Non più 4,8, ma 6,9, 2 miliardi e 100 milioni in più. E scrive il Sole 24 Ore, mancano ora risorse, ne mancano almeno per 1,8 miliardi. Li avete, cari italiani? Mettetene insieme ai 2 miliardini che Renzi ha promesso di trovare dalla notte alla mattina per rispondere all'Unione Europea. Quindi 2 miliardini lì, 1,8 per la TAV, fanno già 3,8 miliardi da trovare così, nottetempo. A proposito di soldi, torno sul Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano racconta una vicenda legata a Renata Polverini, ex segretario del sindacato UGL, che è stato travolto da un'inchiesta e da uno scandalo, ed ex governatrice del Lazio. Fabrizio D'Esposito racconta, pagina 8, le spese pazze dell'ex governatrice del Lazio nelle carte dei PM di Roma. Vacanze a New York, shopping super griffato, tutto a spese del sindacato senza più averne alcun titolo. Luglio dell'anno scorso Renata Polverini è in gita con l'UGL, di cui è stata a lungo leader prima di diventare governatrice. Il divertimento comincia il 6 luglio, 127 euro consumati in una spa per VIP. Poi 283 euro in uno store del marchio notissimo Abercrombie & Fitch. Il 7 luglio lo shopping è spalmato tra orologi, mutande, vestiti per 293 euro. 115 euro da Fossil, orologi, 35 euro in un altro store, Macy's, 153 euro Victoria's Secret per lingerie. Al terzo giorno le spese ancora più impegnative, 470 euro investiti da Anna Fontaine, 306 euro da Ralph Lauren. Il 9 luglio, ultima data monitorata, sempre Ralph Lauren primeggia, 179 euro in un negozio e 179 in un altro. Insomma, in totale fanno 2.100 euro di spese in 4 giorni, che sono finite nelle carte del procuratore Nello Rossi e del PM Stefano Pesce, che hanno scoperto l'inchiesta che ha già portato alla dimissione da segretario generale per un buco di 540.000 euro di Giovanni Centrella. Si scopre che Centrella aveva distribuito, secondo l'accusa, 37 carte di credito, tra cui due alla Polverini e a Stefano Cetica, altro ex segretario generale ed ex assessore della stessa governatrice del Lazio. Per la verità Polverini si difende dicendo: non ho firmato io. Interpellata dal Fatto per la propria versione, l'ex governatrice ci fa contattare dal suo avvocato e la sintesi della conversazione è questa: la Polverini ancora non ha visto nel dettaglio l'estratto conto e in ogni caso fa presente che la carta è intestata all'UGL e le transazioni possono essere state firmate da un'altra persona della comitiva, forse della segretaria del sindacato. Insomma, la firma e la carta di credito a sua insaputa, è la lunga lista che dobbiamo aggiornare, ma questo vedremo sul Fatto Quotidiano. C'è il dibattitone che prosegue da giorni. Leopolda, piazza, CGL o pizza? Ecco, io la metto così. Parte la Leopolda, Fassina non ci sarà perché porterà i bambini allo zoo, fa sapere il ministro Boschi. Il giornale invece dice: si frantuma il PD, metà in piazza domani con la CGL, metà la Leopolda. Sono questioni che certamente animeranno le vostre colazioni. Vi segnalo un articolo di Maria Latella che intervista la leader della destra francese Le Pen. Marine Le Pen, che dice: cambieremo il nome al partito, Front National, rimarrà la parola National. Siamo sul Messaggero a pagina 7, e conferma la rottura col padre: ho anche lasciato la casa che dividevo con mio padre da quando il Doberman di mio padre ha aggredito i miei gatti. E quindi parla di immigrazione, parla di grandi temi, definisce Grillo un opportunista e invece dice con Matteo Salvini: rapporto eccellente, la Lega davanti a sé un grande avvenire. L'intervista interessante a Marine Le Pen, pagina 7 del Messaggero. Ma siamo in conclusione, la carta costa, il Fatto Quotidiano in prima pagina, è riapparso Travaglio, hanno fatto pace. Allora in prima pagina Santoro perdona Travaglio, giornalista di razza in prima pagina! Ma chi se ne frega! Mattino. Sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, oggi vogliamo cominciare parlando di un libro. Un libro di quelli che certamente, come dico io spesso, vi faranno tenere le mani ben strette sul volante, perché, anzi dico, tenetele ben strette, sennò vi viene voglia con la rabbia di dare i pugni a quel volante se siete all'ascolto. L'autore qualche anno fa scrisse con Gian Antonio Stella un volume che ha fatto storia, dando vita anche a un genere letterario, no? E il libro di allora era La Casta. Il libro di oggi si intitola, è uscito da un 2 o 3 giorni, Da qui all'eternità. È edito da Feltrinelli, racconta l'Italia dei privilegi a vita. E l'autore è il giornalista del Corriere della Sera, Sergio Rizzo. Buongiorno Sergio, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, racconti con cifre, numeri, nomi e cognomi chi succhia il sangue degli italiani. Già l'espressione è molto molto forte. Ho letto per esempio un dato che mi ha impressionato. Ma è vero che questi privilegi a vita valgono il 16,6% del PIL italiano? Forse anche di più, chissà. Sono stime che così spannometriche, no, però sono stime abbastanza fondate. Basta pensare qual è il peso, per esempio, dei vitalizi sul costo del Parlamento italiano. Il Parlamento italiano costa complessivamente circa 1,4 miliardi e i vitalizi costano 200 milioni. 1,4 miliardi l'anno, 200 milioni l'anno. Sì. Certo, ma perché si è creato un sistema che tra l'altro costeranno sempre di più, ovviamente, se no a meno si può porre un argine forse per il futuro, no, però ma si deve porre un argine, e questo non riguarda tanto il Parlamento, che per carità pure lì ci sono casi che fanno accapponare la pelle, attenzione, però soprattutto riguarda le regioni, perché le regioni sono diventate negli anni una cosa incontrollabile, è una fucina di spese assolutamente incontrollabile, e soprattutto le regioni hanno rivendicato prerogative identiche a quelle del Parlamento nazionale, quindi abbiamo noi in Italia 20 piccoli parlamenti, ognuno dei quali si fa le regole per conto suo, e così può succedere per esempio come in Sardegna, che ancora oggi nel 2014 c'è chi è andato in pensione col vitalizio a 41 anni. Sì, ci sono dei casi estremi che magari tra poco vedremo, però la questione è proprio la tendenza che tu sottolinei nel libro, ed è una tendenza negativa. Per dire, nel 2012 alla Regione Lazio si spendevano 15.970.000 euro in vitalizi, nel 2014 sono 20.024.000 euro, cioè se non si pone un argine sarà sempre peggio per i conti delle regioni. Non soltanto, ma c'è una sproporzione poi talmente gigantesca tra quello che questi signori materialmente sborsano, che poi sono sempre soldi nostri, attenzione, per diciamo garantirsi il vitalizio, e quello che poi in realtà incassano. Il rapporto è di 1 a 20, cioè sono cose che non hanno senso ormai in un sistema previdenziale che dovrebbe essere contributivo, no? Cioè noi abbiamo i comuni mortali che vanno in pensione a 67 anni e se gli va bene incassano quello che hanno versato, e invece c'è una certa categoria di persone alle quali è consentito avere un trattamento completamente ma scusa diverso. Ma la stretta sui vitalizi che spesso molte regioni dicono abbiamo fatto, certo per il futuro, perché i diritti acquisiti quelli non si sa perché non si possono toccare, però è effettiva, certo, questo è chiaro, è chiaro, ma è effettiva questa stretta, cioè c'è un freno a tutto ciò che puoi constatare oppure no? Allora, per il futuro io sarei molto attento, perché i vitalizi sono stati aboliti sulla carta in tutte le regioni per il futuro, come dicevamo, ma anche lì bisogna stare sempre col fucile puntato, perché chissà che poi non saltino fuori altre forme particolari, come abbiamo visto in Trentino, no? Si sono inventati una cosetta insomma abbastanza interessante. Ma per il passato noi dobbiamo tenere in considerazione che ci sono ancora tantissimi di questi ex politici che sono in lista d'attesa con le vecchie norme. È chiaro. Allora interveniamo su questi o no? Ma poi i doppi e tripli vitalizi che facciamo? Li lasciamo? Cioè noi abbiamo delle persone in Italia che sono, io ho calcolato intorno alle 400 persone che non prendono soltanto un vitalizio, ma siccome hanno avuto più vite politiche prendono più vitalizi. Cioè un signore che è stato parlamentare e poi consigliere regionale prende due vitalizi, poi magari se è stato anche parlamentare europeo, e ce ne sono tanti, potrebbe prendere anche il terzo. Ma qual è il caso che più ti ha colpito, alcuni casi che ti hanno veramente colpito nello scrivere questo libro? Beh, insomma, io per esempio cioè, ho visto, c'è cioè, il caso di, che è noto peraltro, quello di Carlo Riva di Meana, che siccome è stato consigliere regionale in due regioni diverse, prende due vitalizi da due regioni diverse, più due pensioni dall'Europa, perché è stato commissario europeo e anche parlamentare europeo. Quindi diciamo è una cosa che non ha senso, cioè non so come dire, poi ci sono i sindacalisti, perché ci sono i sindacalisti, non ci dimentichiamo, che sono stati parlamentari nazionali, consiglieri regionali, no? E anche sindacalisti. Ma perché infatti il libro non è solo dedicato alla politica, cioè tu chi succhia il sangue degli italiani, tu metti dentro appunto ambasciatori, generali, quindi l'esercito, manager, allora, di banche e imprese, magistrati. Diciamo questo termine succhia il sangue, diciamo, è stato un po' brutale. No, nel senso che io non lo uso mai nel libro questo termine, perché a me sinceramente non piace. È stato usato, diciamo, in certe recensioni che sono uscite, quindi è stato in qualche modo presentato così, però diciamo, se vogliamo fare una forzatura, questi sono soldi pubblici e quindi di fatto sono denari che escono dalle nostre tasche tutti i giorni, quindi ognuno può, diciamo, usare i termini che meglio crede, no? Ma la verità è che poi questo sistema si è, come dire, esteso dalla politica a tutto il resto della società, con delle forme che sono delle forme talvolta stravaganti. Ci sono persone in Italia che, al di là del vitalizio, che magari non prendono perché non sono stati parlamentari o consiglieri, però hanno, chissà perché, per diritto divino, no, il posto a vita in qualsiasi azienda pubblica. Lo so, io ci sono dei casi di signori, per carità, ma saranno anche giovanili e in forma a quell'età, io mi auguro di arrivarci e di essere come loro, ma tu puoi nominare a 83 anni un signore a fare il presidente di una società operativa? Ma è successo, fai? È successo. Sì, certo, ovviamente i nomi e i cognomi poi li trovate tutti nel libro dettagliato. Ci sono queste cose. Il problema è che tu spieghi, il problema sta nelle leggi, cioè tutto in Italia è legittimo, è a norma di legge, è tutto in regola. E quindi laddove è a regola, a norma di legge, si annida poi il fatto che non si riesce a cambiare nulla. Non c'è dubbio, ma c'è un'altra chiave di lettura che secondo me è ancora più interessante, no? È il periodo in cui queste leggi sono state fatte, che ci dice una cosa abbastanza inquietante, cioè che purtroppo questo in parte è anche il frutto avvelenato del 68, cioè quella stagione di lotte, chiamiamole così, che avrebbero dovuto, no, modernizzare il paese, no, farlo crescere. Noi ne abbiamo preso la parte peggiore. Non è un caso che tutte le leggi previdenziali che poi hanno assicurato questi privilegi a vita, pensiamo alle baby pensioni, pensiamo per esempio ai trattamenti privilegiati per i militari, no? Sono tutte leggi fatte negli anni 70. Tu fai un capitolo, infatti, no? La guerra mondiale non è mai finita, dedicata all'esercito, ai privilegi nell'esercito. Una categoria riusciva a prendersi, a portare a casa un privilegio previdenziale, ecco che subito la categoria a fianco rivendicava lo stesso diritto e riusciva a farsi fare una legge apposita, no? Quindi i sindacalisti si sono fatti la legge Mosca, la cosiddetta legge Mosca, poi i militari si sono fatti la legge, quella che prevede appunto le cause di servizio e le pensioni privilegiate, poi siamo arrivati alle piccole regole, no? Per cui una volta nelle aziende pubbliche non si poteva diventare amministratori delegati, anzi presidenti superati i 70 anni, poi piano piano si è cominciato questa regola a metterla nel cassetto e quindi poi siamo arrivati al punto che ancora fino all'altro ieri nominavamo presidente delle ferrovie un signore che aveva 80 anni. Ma quindi ti ha colpito per esempio di recente sulla cronaca è uscita la storia di questo minatore sardo che per 40 anni non ha lavorato e ha la pensione, si è inventato tutto con malattie finte, anche questo insomma è un po' lì si annida, certo, i privilegi. Ma certo, come questo caso. Cioè, ma pensiamo per esempio alle normative che riguardano il trasporto aereo. Le normative che riguardano il trasporto aereo sono incredibili, cioè un comandante, adesso per carità siamo tutti solidali con chi stare sulle torri per protestare, per difendere il proprio posto di lavoro, va benissimo, Però non si può non dire che un comandante di una compagnia aerea che vada in cassa integrazione può portare via 7-8 mila euro netti al mese di cassa integrazione. Cioè, succede dove? Succede per esempio adesso, no? C'è la crisi di Meridiana, basta fare i conti, perché la cassa integrazione per i dipendenti, diciamo, per il personale del volo è pari all'80% della retribuzione tabellare, quindi basta vedere quanto guadagna un comandante, un assistente di volo. Questo per dire che poi questo è un paese nel quale ogni piccola categoria si è riuscita a ritagliarsi Il suo privilegio, la sua posizione di privilegio. Ma allora fa bene, per esempio, per andare alle cose attualissime, Renzi a dire: cara Unione Europea, ci criticate e noi pubblicheremo i vostri sprechi? Allora, l'Unione Europea, c'è un altro aspetto interessante che si racconta. Cioè, noi siamo arrivati al punto che criticavamo tanto le nostre istituzioni per mancanza di trasparenza, no? Siamo arrivati oggi al punto che le regioni pubblicano nei siti internet l'elenco dei vitalizi. Qualunque cittadino può andare a vedere se il consigliere tale prende il vitalizio e di che importo è, spesso e volentieri c'è anche la cifra. E l'Unione Europea, cioè il Parlamento Europeo, questi dati non li rende noti. Io ho chiamato il portavoce. C'è la privacy. Sentito, mi sono sentito rispondere che c'è la privacy, quindi questo per dire che in qualche caso abbiamo anche noi qualcosa da rimproverare all'Europa, allora, che ci tira sempre le orecchie, no? Senti, a quando, Sergio, un libro sulla casta dei giornalisti, se esiste? Ci saranno privilegi anche da noi, no? Beh, sono privilegi che stanno diminuendo a vista d'occhio, no? Perché con la crisi della stampa. Certo, per esempio noi abbiamo avuto una lunghissima stagione in cui i giornali di partito hanno beneficiato, soprattutto i giornali di partito, e poi anche gli altri prendevano i contributi pubblici, ma fino al 2006, questo va detto, e poi non ne prendono più, perché tutte le volte si sente... Sì, anche il vostro giornale, esatto. No, sono 8 anni che non si prendono più soldi dallo Stato. Mentre invece i giornali di partito sono stati a lungo... In quanto giornali di partito? E non ci dimentichiamo, per esempio, che una gran parte della classe dirigente, chiamiamola così, della stampa italiana, viene da lì. No? Se noi facciamo l'elenco dei capiredattori, dei direttori, dei vice direttori dei grandi giornali, vediamo che moltissimi vengono appunto da organi di stampa, sì, diciamo, dall'Unità, la Voce Repubblicana. Per concludere, Sergio, giro la domanda che io ho letto e che tu mi hai fatto nella dedica del libro. Caro Alessandro, ma si può andare avanti così? Caro Sergio, non lo so, si può andare avanti? No, non si può andare avanti così. No. Non si può andare avanti così, e io credo anche una cosa, che un paese per cambiare deve cambiare le persone. È molto difficile che le stesse persone che l'hanno portato in questa situazione poi lo tirino fuori. Non ci credo, non ho fiducia. Certo, in perché questo, non esistono i tacchini che festeggiano il Natale, ecco, esatto. diciamola così. Io ti ringrazio davvero, ricordo Sergio Rizzo, Da qui all'eternità, l'Italia dei privilegi a vita, edito da Feltrinelli, lo trovate ovviamente in tutte le librerie ormai da 2 o 3 giorni, e grazie per quest'altro spaccato che certo farà arrabbiare molti, però rende più consapevoli, che poi la consapevolezza è la prima cosa per cercare di cambiare, impegnarsi per cambiare le cose. Grazie Sergio Rizzo, ovviamente. Grazie a voi. E dopo la pubblicità invece parleremo di un caso giudiziario in provincia di Lecce, un uomo che ha ucciso il figlio ed è stato condannato in primo grado ma assolto, giudicato non colpevole in appello, perché quando ha ucciso il figlio era totalmente ubriaco e quindi giudicato totalmente incapace di intendere di volere. Io ho sempre pensato che l'essere ubriachi, essere drogati, fosse un aggravante nel compiere i reati, e invece la Corte d'Appello ha mandato assolto non colpevole una persona che ha ucciso il figlio in quanto era sotto stato di ubriachezza. 24 mattino. Siamo qui alle 8:39 minuti. Allora, la domanda che si potrebbe porre è questa: si può venire assolti di un reato come quello dell'omicidio perché nel momento in cui si sta commettendo l'omicidio si è incapace di intendere di volere in quanto ubriachi? Evidentemente si può, è successo a Enzo Caretto, 72 anni, che ha ucciso il figlio al culmine di una lite, In primo grado, per la verità, è stato condannato a 30 anni di carcere, ma in appello è stato giudicato non colpevole proprio perché incapace di intendere e volere. I giudici della Corte d'Appello lo hanno giudicato non colpevole. È successo il fatto di cronaca a Guagnano, in provincia di Lecce, qualche anno fa. E ovviamente gli interrogativi sono quelli che tutti si pongono, ma come è possibile che sia andata così? Intanto voglio salutare l'avvocato Sabrina Conte, che insieme a Vincenzo Carbone è il legale difensore di Enzo Caretto, quindi della persona assolta. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Intanto la domanda se la pongono molti cittadini, a dire: ma com'è possibile? Io nella mia ignoranza ho sempre pensato che essere ubriachi è un aggravante per un reato, invece in questo caso no. Com'è che siete riusciti a far assolvere il vostro assistito? Ma guardi, lei è tutt'altro che ignorante, perché effettivamente l'ubriachezza è considerata un aggravante del codice penale in tutti i casi, non solo occasionale ma anche quando è abituale. Il caso di Caretto è un caso che è sempre previsto dal codice, ma che è peculiare e non presuppone lo stato di ubriachezza al momento del fatto, presuppone che l'imputato sia affetto da una vera e propria malattia che si chiama codicisticamente cronica intossicazione da alcol e che naturalmente viene definita proprio dalla scienza medica. Infatti la Corte si è avvalsa di due consulenti, non ha certamente preso autonomamente questa decisione, due consulenti che hanno verificato che questo signore era purtroppo alcolista cronico da 35 anni. Quindi questa è la differenza, si è accertato che aveva questa malattia, una cronica intossicazione da alcol. E quindi... che è tutt'altro dalla ubriachezza abituale, che invece è considerata, come lei giustamente diceva, un aggravante. Però in primo grado evidentemente i giudici non l'hanno pensata così. In primo grado era stato nominato un consulente diverso che ha valutato la documentazione sanitaria in maniera diversa, anche molto contraddittoria, tant'è vero che la Corte ha ritenuto di nominare due consulenti sulla scorta di una serie di questioni che abbiamo posto io e il collega Carbone nei nostri motivi d'appello e che lasciavano aperte moltissime domande sullo stato di salute di questa persona. Per cui hanno approfondito l'indagine e hanno verificato che effettivamente Caretto era affetto da questa patologia che lo ha reso totalmente incapace di intendere volere. Quindi non momentaneamente in quel... Tutt'altro, no, tutt'altro. Totalmente certo? Incapace. Totalmente no, questa è interessante incapace. Perché nell'introdurre la seconda ospite, che tra poco saluto, è quasi, si potrebbe già dare idealmente una risposta a coloro che si scrivono via SMS e dire: ma allora chi si mette ubriaco alla guida e causa un incidente mortale potrebbe essere assolto, a parte che ogni vicenda è diversa. Ma ci sta spiegando l'avvocato Conte che qui è stato giudicata la persona in una situazione di cronica intossicazione d'alcol, cioè che quindi causa una incapacità permanente di intendere e di volere. Comunque voglio salutare la professoressa Maria Lucia Di Bitonto, che insegna diritto processuale penale all'Università LUIS e all'Università di Camerino. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Ovviamente il dispositivo della sentenza non c'è, perché ci sarà nei prossimi giorni, però quello che sappiamo è che è stato giudicato non colpevole, quindi ci spiega l'avvocato Conte, ci sta spiegando perché è considerata questa persona totalmente incapace di intendere e volere per questa cronica intossicazione da alcol. Lei come esperta di diritto processuale penale che lettura dà a questa sentenza? Dunque, solo una correzione: il dispositivo già c'è, non lo conosciamo perché non lo abbiamo visto. Le motivazioni visto, ma il dispositivo non ci sono, sì, non può, c'è. Le motivazioni non ci sono. Dunque, è la situazione è abbastanza banale dal punto di vista legale, nel senso che il codice penale, che peraltro è un codice. Noi utilizziamo ancora, sia pure diversamente novellato, il codice del 1930, quindi un codice abbastanza che ha la sua età, prende in considerazione l'intossicazione cronica da alcol e la tratta come il vizio totale di mente. Il punto è che un principio fondamentale del diritto penale è la personalità della responsabilità, cioè possiamo applicare una pena solo nei confronti di una condotta, di una persona cui possiamo rimproverare la condotta che ha posto in essere. Quando c'è un vizio totale di mente o quando c'è un'incapacità totale, questo giudizio di rimproverabilità non può essere formulato. Ma questo non significa che non ci siano conseguenze. Perché? Perché una persona che commette queste fatti che nella loro oggettività costituiscono comunque un reato, non paga una pena, ma è pericolosa per la società, quindi nei suoi confronti può e anzi deve essere applicata una misura di prevenzione. Cioè, ci sta dicendo che, per esempio, voglio sperare che venga curato, per esempio, no? Voglio sperare che Le misure di sicurezza hanno anche un certo margine di afflittività, quindi la soluzione in questo caso registra e fotografa una situazione di totale incapacità di intendere di volere, ma non priva la vicenda e la persona di conseguenze penali. Però ci sta dicendo Misure di sicurezza è una conseguenza penale imposta in questi casi. No, ma è chiarissimo, professoressa Di Vitonto ci sta dicendo che dal punto di vista, se dei periti hanno accertato il vizio totale di mente e in una corte ha stabilito che effettivamente questi periti erano credibili e sono credibili, dal punto di vista processuale non è tecnicamente un errore, diciamo così, non è sbagliato la sentenza di assoluzione, perché non si può punire una persona che è totalmente incapace di intendere e volere. Sì, potrei però chiarire che sì, nel caso del Caretto è stato accertato anche che non è un soggetto socialmente pericoloso, perché, avvocato, perché mi perdoni se intervengo, perché è ovvio che la questione della misura di sicurezza è stata valutata dalla Corte d'Appello e considerando anche l'efferatezza del fatto storico, perché purtroppo questo è stato un accoltellamento, dunque molto sanguinoso come fatto, ma i periti hanno anche accertato che lo stato di salute generale del Caretto esclude in radice ogni pericolosità, anche perché lui oggi non è soltanto affetto dalle conseguenze di questa cronica intossicazione da alcol, che sono tutta una serie di danni neuropatologici molto seri, ma anche da purtroppo altre patologie. Sì, ma lei ci sta dicendo che non c'è nessuna misura nei confronti? No, non è stata disposta alcuna misura di sicurezza. In questo momento è a casa, è tranquillamente. Era già, per la verità, lui era già a casa da oltre un anno, perché già un anno fa era stata accertata la sua incompatibilità con il regime carcerario, perché era già molto malato. Cioè, ma mi scusi, è a casa con la moglie? Adesso non è che voglio. No, la moglie è a sua volta disabile, purtroppo, perché la storia di quest'uomo è una storia di molteplici disgrazie. Il suo alcolismo affonda in. Cioè, però ci sta dicendo che non è stato risposto nulla nei suoi confronti, che ne so, che si curi, che vada in una comunità. Perché lui è già in cura, le spiego. La Corte Costituzionale, è naturalmente tutto corretto quello che ha affermato la professoressa Di Vitonto, e naturalmente non c'è da aggiungere nulla, se non che la Corte Costituzionale ha chiarito che l'obbligatorietà della misura di sicurezza va accertata in rapporto all'attualità della pericolosità sociale. Cioè non si può applicare. E siccome non è considerato socialmente pericoloso, è stato escluso in radice, perché non sarebbe in grado di far male ad una mosca. In un letto infermo non ha neanche la forza di alzarsi dal letto, ha necessità di una diciamo per le sue condizioni, per una anche per alzarsi, per le sue condizioni attuali. 24 mattino. Allora, siamo qui. Come potete immaginare, molti ascoltatori sono critici. Vorrei sentire, per esempio, Luigi ci chiama da Parma. Luigi, buongiorno. Buongiorno, sì. Milan. Dica. Io vorrei fare semplicemente una domanda. Sì. Siccome ritengo che lo stato di alcolismo cronico sia incompatibile con la guida, pongo la domanda. Quel signore ha la patente? Ma no, ci ha spiegato l'avvocato che non fa fatica anche a alzarsi dal letto, quindi non è in grado. Però, avvocato, ha la patente? Assolutamente non è in grado di guidare, è infermo in un letto. È infermo in un letto, va bene. Non ha neanche la macchina. Quindi, insomma, non... La cosa mi consola. La cosa la consola, beh, certo, ma insomma, se è affetto tra l'altro da questa cronicità, voglio immaginare che se anche fosse in grado di guidare non gli sarebbe consentito. Grazie, Luigi. Andrei a Pavia da Giovanni. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Semplicemente una riflessione da fare per tutta la nostra società. Abbiamo un dispositivo che a livello nazionale il medico curante, il medico di base, se ha un paziente che ha questa dipendenza da alcol, segnali alle ASL la cronicità in modo che le patenti possano essere momentaneamente sospese fino a quando questo rientra nella normalità? Guardi, è una domanda alla quale io non è che so rispondere, effettivamente. Voglio sperare di sì, non so, avvocato, lei ha una risposta? Guardi, la domanda che ha posto questo signore è estremamente interessante, non solo e non tanto per questo caso, sì, legato alla patente, ma per quanto riguarda la disattenzione cronica del nostro paese per le problematiche di questo genere, perché i servizi sociali erano al corrente della situazione personale e familiare del Caretto. Lui ha subito anche due ricoveri in trattamento sanitario obbligatorio nel corso degli anni, ma nessuno ha aiutato la sua famiglia, nessuno ha aiutato lui. Questo era un delitto largamente preannunciato, perché la situazione era drammatica ed era noto a tutti nel suo paese. Per questo, professoressa Di Bitonto, le chiedo questo: come può immaginare molta gente che ascolta, cioè persone che non hanno in mano, non hanno la conoscenza del codice, non sanno come funziona un processo, non sanno come funzionano i tecnicismi che lei prima ci ha spiegato molto bene, cosa pensano le persone comuni? Pensano e leggono, ma insomma, vere è un qualcosa che anche di fronte a un omicidio non comporta una pena. È una traduzione troppo brutale, sbagliata? Sì, una traduzione troppo brutale, perché io non ho parlato di tecnicismi, io ho parlato di un principio che è quello della personalità, della responsabilità penale, che ha cominciato a far parte del patrimonio umano dalla rivoluzione francese in poi, cioè persone sono morte, hanno combattuto battaglie di libertà perché nelle costituzioni fosse scritto che la responsabilità penale è personale, perché è un principio di civiltà elementare che si possa punire qualcuno soltanto se la condotta che ha posto in essere è rimproverabile. Quindi se poi oggi nel 2014 nel nostro paese è così complicato spiegare una regoletta costituzionale, sì, che i bambini dovrebbero imparare a scuola quando fanno educazione civica, questo è un problema culturale, è interessante. È un problema, dipende anche forse dall'informazione, però assistiamo da decenni a diciamo così a organi di informazione che preferiscono montare polemiche sugli affari di giustizia invece che cercare di capire le cose. Io penso che qualunque persona alla cieca, cioè non sapendo quale ruolo potrà assumere in un processo, preferirebbe un sistema nel quale si stabilisce che si può andare in carcere solo se si ha commesso qualcosa consapevolmente. Ora, quello che interessa alla società è che queste persone pericolose non portino morte altrove, e gli istituti giuridici ci sono. Ricordo poi che questa regola, la regola di assimilare l'intossicato cronico da alcolismo a chi è affetto da vizio totale di mente, è una regola che risale ad un sistema e ad un ordinamento, quale quello fascista, particolarmente autoritario, quindi mi sembra proprio il minimo consentito delle garanzie. E se ci si sorprende oggi, 70 anni dopo, che esiste una regola del genere, penso che il problema sia più culturale che altro. Io mi fermo qui e vi ringrazio, perché siete state chiarissime nell'esporre un caso che, messo sui giornali così, ha scioccato molto nei titoli, ma ci avete spiegato perché si è arrivati a questa sentenza. Grazie all'avvocato Sabrina Conte, grazie alla professoressa Maria Lucia Di Bitonto, che insegna, ricordo, diritto processuale penale alla LUIS e a Camerino. Ci fermiamo qui per questa settimana e l'appuntamento è alla prossima, alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.